Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erwinio Pocar. Dormii fino alle 5 o alle 6 del mattino. Quando mi destai, non era ancora chiaro, ma mi alzai immediatamente. Per via del freddo mi ero buttato sul letto senza spogliarmi e non avevo quindi bisogno di vestirmi. Presi un sorso d'acqua e, aperta la porta senza far rumore, uscii subito per paura di incontrare ancora la padrona. Gli unici esseri viventi che incontrai nelle strade furono due o tre guardie del servizio notturno. Poco dopo i lampionai incominciarono a spegnere i fanali a gas. Io giravo senza meta, arrivai nella via della chiesa e presi la strada della fortezza. Gelato e assonnato, con le ginocchia fiacche per la lunga marcia e molto affamato, mi sedetti là su una panchina e mi appisolai. Per 3 settimane ero vissuto esclusivamente del pane imburrato che la padrona mi dava mattina e sera. Ora erano esattamente 24 ore da quando avevo preso l'ultimo pasto e di nuovo sentivo i morsi della fame. Urgeva trovare una via d'uscita e tra questi pensieri mi riaddormentai. Mi destai sentendo qualcuno che parlava vicino a me e dopo essermi fregati gli occhi vidi che era ormai giorno e che c'era molta gente in giro. Anch'io mi alzai e mi allontanai. Il sole saliva dalle alture boscose, il cielo era bianco e pulito, e per la gioia di quel bel mattino, dopo le lunghe settimane di buio, dimenticai le mie pene e pensai che molte altre volte ero stato assai peggio. Mi battei una manata sul petto e mi misi a canticchiare. La mia voce aveva un tono sofferente, un tono malato che mi commosse fino alle lacrime. E la giornata, magnifica col cielo bianco imbevuto di luce, mi fece una tale impressione che non potei fare a meno di scoppiare in singhiozzi. «Che cosa avete?» mi domandò un tale. Io non risposi e scappai via nascondendo a tutti il mio volto. Arrivai ai pontili di carico. C'era un grande barcone che batteva bandiera russa e scaricava carbone. Sul fianco lessi il nome Copegoro. Il viavai sulla nave straniera mi distrasse un poco. I lavori di scarico dovevano essere quasi terminati. Il barcone, infatti, sporgeva già 9 piedi sopra la linea d'immersione, nonostante la zavorra già imbarcata. E quando i portatori passavano in coperta con gli scarponi pesanti, tutta la nave mandava un suono di vuoto. Il sole, la luce, il vento salmastro del fiordo, quel lavorio allegro e affaccendato, tutto ciò mi riconfortò e mi fece scorrere il sangue nelle vene con ardore. Mi venne anche in mente che stando lì avrei potuto forse comporre qualche scena del mio dramma. Tirai fuori il manoscritto e tentai di mettere insieme la risposta di un monaco, una risposta che doveva essere violenta e carica di intolleranza, ma non mi riuscì. Saltai quindi il monaco e incominciai a elaborare un discorso, il discorso del giudice alla profanatrice del tempio. Scrissi 30 pagine di quel discorso e poi smisi. Non riuscivo a trovare il tono adatto alle sue parole. Quell'andare e venire, il canto monotono dei marinai, i tonfi degli argani e il fragore incessante delle catene male si adattavano all'atmosfera del Medioevo impenetrabile che doveva gravare come una nebbia sopra il mio dramma. Ripiegai il manoscritto e mi alzai. Tuttavia, avevo ripreso felicemente l'avvio e sentivo che se le cose si mettevano bene, ero capace di fare qualcosa di buono. Intanto bisognava trovare un posto dove andare. Mi fermai in mezzo alla strada a pensare, a riflettere, ma non conoscevo un angolo tranquillo in tutta la città dove potessi mettermi in pace per qualche tempo. Non c'era altra soluzione. Dovevo proprio ritornare alla locanda, a Waterland. Mi torcevo a questo pensiero e seguitavo a ripetermi che era assurdo, eppure andavo in quella direzione e mi avvicinavo al luogo proibito. Certo, era vergognoso, d'accordo, lo ammettevo, era addirittura obbrobrioso, ma era inutile. Non c'era più alterigia in me, niente affatto. Osavo, anzi, asserire di essere una delle creature meno superbe che ci fossero mai state al mondo. E continuavo a camminare. Davanti alla porta mi soffermai a riflettere ancora una volta. Ma succedesse quel che doveva succedere, bisognava rischiare. Non si trattava forse di una cosa da nulla? Prima di tutto mi occorrevano soltanto un paio d'ore e poi, per tutti i santi, non mi sarei mai più rifugiato in quella casa. Me lo proponevo fermamente. Entrai dunque nel cortile e, mentre passavo sulle pietre ineguali con cui era lastricato, provai un nuovo moto di incertezza e stavo per tornare indietro. Ma strinsi i denti. No, niente orgoglio fuori luogo. Alla peggio potevo trovare la scusa che ero venuto per salutare, per prendere commiato decorosamente e mettermi d'accordo sui debitucci che avevo lasciato. Aprii quindi la porta dell'anticamera e, appena entrato, rimasi sbalordito. Davanti a me, a soli due passi di distanza, c'era il padrone senza cappello e senza giacca che guardava nello stanzone dal buco della serratura. Mi fece un cenno con la mano perché stessi zitto e continuò a guardare. E rideva. «Venite qua», mi sussurrò. Mi avvicinai in punta di piedi. «Vedete?» disse con un riso silenzioso e convulso. «Guardate là dentro, se ne stanno insieme. Il vecchio, lo vedete? Vedete il vecchio?» Nel letto, esattamente sotto il Cristo dell'oleografia e molto vicino a me, scorsi due persone, la padrona e il pilota forestiero. Le gambe della donna si disegnavano bianche sulla coperta scura, e nel letto, all'altra parete, c'era il padre di lei, il vecchio paralitico che stava a guardare col mento appoggiato alle mani, raggomitolato come al solito, senza potersi muovere. Mi volsi verso il padrone, il quale faceva grandi sforzi per non ridere forte. Si turava il naso. «Avete visto il vecchio?» bisbigliò. «Dio buono, lo avete visto? Se ne sta là a guardare!» E riavvicinò l'occhio al buco della serratura. Io andai a sedermi presso la finestra. Quello spettacolo aveva sconvolto senza pietà i miei pensieri e annientato ogni mia ispirazione. Ma dopo tutto, che mi importava? Se il marito tollerava, se anzi ci trovava il suo divertimento, io non avevo certo alcun motivo per occuparmene. E in quanto al vecchio, era appunto vecchio. Forse non vedeva nemmeno, forse dormiva, chissà, forse era morto. Non mi sarei certo stupito se mi avessero detto che era morto. La mia coscienza non c'entrava. Ripresi il manoscritto e volli scacciare tutte quelle impressioni che non mi riguardavano. Mi ero interrotto in mezzo a un periodo del discorso del giudice. «Così mi comanda Dio e la legge, così mi comanda il consiglio dei miei sapienti, così mi comanda anche la coscienza», guardai dalla finestra pensando e cercando che cosa gli dovesse comandare la coscienza. Dallo stanzone mi giunse un lieve rumore, ma ciò non mi riguardava minimamente. Inoltre il vecchio era morto forse quella stessa mattina alle 4. Il rumore mi era dunque infinitamente indifferente e mi lasciava freddo. Perché diamine dovevo preoccuparmene? Stai calmo una buona volta, così mi comanda anche la coscienza. Ma tutto congiurava contro di me. Quell'uomo davanti al buco della serratura non stava zitto. Sentivo ogni tanto la sua risata rauca e lo vedevo tremare. Anche fuori, nella strada, c'era una cosa che mi distraeva. Un ragazzino era seduto sul marciapiede, al sole, e giocava tranquillo e inconsapevole, facendo una pallottola con alcune strisce di carta. A un tratto balzò in piedi, imprecando, camminò a ritroso fin sulla strada, scorse un uomo, un uomo adulto con tanto di barba rossa che, affacciato a una finestra del secondo piano, gli aveva sputato in testa. Il piccolo piangeva per la rabbia e lanciava insulti impotenti verso la finestra, mentre quello gli rideva in faccia. Così passarono 5 minuti. Io mi volsi dall'altra parte per non vedere il pianto del fanciullo. Anche la mia coscienza mi comanda di ma non riuscivo ad andare avanti. E infine ebbi una grande confusione in testa. Mi pareva persino che tutto quanto avevo scritto fosse senza valore, che anzi l'idea centrale fosse insensata. Si poteva parlare di coscienza nel Medioevo? La coscienza fu inventata da quel vecchio maestro di ballo, Shakespeare, perciò tutto quel mio discorso era una scempiaggine. In tutti quei fogli, dunque, non c'era nulla di buono. Li scorsi ancora una volta e vinsi i miei dubbi. Trovai passi grandiosi, lunghi tratti di grande bellezza e di nuovo sentii nel mio cuore inebriato il desiderio di rimettermi al lavoro e di terminare il dramma. Mi avvicinai alla porta senza curarmi del gesto rabbioso con cui il padrone mi invitava a star fermo. Attraversai risolutamente l'anticamera, presi la scala del secondo piano e ritornai nella mia vecchia stanza. Tanto il pilota non c'era, che cosa mi impediva dunque di trattenermi là qualche minuto? Non avrei certo toccato la sua roba, anzi, non volevo neanche sedermi al suo tavolino. Mi accontentavo di stare su una sedia dietro la porta. Ardendo d'entusiasmo, stesi i fogli sulle ginocchia e per alcuni minuti il lavoro procedette magnificamente. Botta e risposta una dopo l'altra mi fiorivano nel cervello. Scrivevo senza fermarmi, riempii una pagina dopo l'altra superando tutti gli ostacoli, entusiasta di quei momenti felici, dimentico di me stesso. L'unico suono che ero in grado di sentire in quei momenti era il mio gioioso mormorio e mi venne anche un'idea luminosa, una campana che a un certo punto del dramma doveva intervenire coi suoi rintocchi. Tutto andava a meraviglia. A un tratto udii dei passi sulle scale, rabbrividii e sentendomi mancare mi tenni pronto ad alzarmi. La fame mi rendeva pavido e agitato. Stetti in ascolto con tutti i nervi tesi e pur stringendo la matita non potei scrivere più nemmeno una parola. La porta si aprì e nella stanza entrò la coppia che avevo visto. Prima che avessi il tempo di chiedere scusa, la padrona esterrefatta esclamò: «Dio del cielo, guardalo ancora qui!» «Scusatemi», dissi, ma non potei continuare. La padrona spalancò la porta e gridò: «Se non ve ne andate di corsa, per Dio, chiamo la polizia!» Mi alzai mormorando: «Volevo soltanto salutarvi, ma ho dovuto aspettare. Non ho toccato nulla, mi sono solo seduto su questa sedia». «Via, non importa», borbottò il marinaio, «che male c'è, lascialo stare». Quando fui in fondo alla scala mi sentii scoppiare dalla collera contro quel donnone gonfio che mi seguiva per cacciarmi via il più presto possibile e mi fermai un istante con la gola piena di insulti sanguinosi che volevo scagliarle in faccia. Ma mi contenni e tacqui per gratitudine verso il forestiero che la seguiva e potevo udire. La padrona mi stava alle calcagna e a ogni passo la mia collera aumentava. Arrivammo giù nel cortile. Io camminavo molto lentamente, riflettendo ancora se dovevo sfogarmi o no. Non ero più padrone di me e già vedevo sangue. Un colpo e l'avrei fatta stramazzare esanime. Bastava una pedata nel ventre. Sulla soglia mi vidi passare accanto un fattorino che mi salutò, ma io non risposi. Egli si rivolse alla padrona e sentii che chiedeva di me, ma non mi voltai. Avevo fatto alcuni passi sul marciapiede quando il fattorino mi raggiunse e, salutatomi ancora, mi fermò porgendomi una lettera. L'aprii con uno strappo rabbioso. Ne uscì un biglietto da 10 corone. Ma nessuna lettera, non una parola. Che trucchi sono questi? Chi manda la lettera? Ma non lo so, rispose quello. Me l'ha data una signora. Restai sbalordito mentre il fattorino si allontanava. Rimisi le 10 corone nella busta Ne feci una pallottola, tornai indietro verso la padrona che mi spiava dalla soglia e le buttai in faccia le 10 corone, senza pronunciare una sillaba. La osservai che svolgeva la carta appallottolata e poi me ne andai. Che gesto, eh? Non c'è che dire. Senza sprecare una parola con quella gentaglia, prendere un bigliettone, farne una pallottola e scaraventarlo in faccia ai propri aguzzini. Questo sì che è un comportamento dignitoso. Così bisogna fare con quei bestioni. Quando arrivai all'angolo fra la Tomte Gate e il piazzale della stazione, la strada incominciò improvvisamente a girarmi davanti agli occhi e mentre la testa mi ronzava dovetti appoggiarmi al muro di una casa. Non potevo più andare avanti. Le gambe non mi reggevano. Non riuscivo a rimettermi in piedi e avevo l'impressione di svenire. A quell'attacco di debolezza la mia collera aumentò ancora e incominciai a battere violentemente i piedi sul marciapiede. Feci anche dell'altro per riprendere forza. Strinsi i denti, corrugai la fronte, roteai disperatamente gli occhi e mi accorsi che stavo meglio. Il pensiero mi si schiarì e compresi che quello era solo il principio. Tesi le braccia e mi staccai dal muro. La strada mi danzava ancora attorno. Folle di rabbia, mi misi a singhiozzare e lottando con tutte le mie forze riuscii a non cadere. Ero ben deciso a non crollare e volevo morire in piedi. Vidi passare lentamente un carretto carico di patate, ma ostinato e rabbioso com'ero, dissi che non erano patate, ma cavoli, e giurai per tutti i santi che erano cavoli. Afferravo benissimo le mie parole e ripetevo coscientemente quella menzogna soltanto per avere la magnifica soddisfazione di giurare il falso. Mi inebriavo all'idea di quel peccato grandioso, sollevavo le 3 dita e giuravo con le labbra tremanti in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo che erano cavoli. Il tempo passava. Mi lasciai cadere su uno scalino e, asciugatomi il sudore dalla fronte e dal collo, respirai profondamente, sforzandomi di stare calmo. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.